Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Continua la settimana speciale dedicata alla fintech, la financial technology, che sta cambiando il mondo delle industrie finanziarie grazie a una serie di nuovi strumenti e servizi di cui appunto ci stiamo occupando in questi giorni. E anche questa sera la nostra analisi, la nostra puntata prende il via da una parola chiave, che in questo caso è robo advisor, letteralmente quindi consulente robotico. Di che cosa parliamo? Lo chiediamo subito a Laura Grassi, che è ricercatrice dell'Osservatorio Digital Finance del Politecnico di Milano. Buonasera, buonasera dottoressa Grassi. Buonasera, buonasera a voi. Senta, allora, che cos'è questo robo advisor e che cosa fa nella vita? I robo advisor sono un modo diverso di gestire gli investimenti. Quindi se volessimo fare un esempio, qualora io dovessi investire 100.000 euro, anziché investirla in modo tradizionale, quindi andando allo sportello di una qualsiasi filiale bancaria e chiedendo di sottoscrivere una quota di un fondo di investimento piuttosto che di un fondo pensione, quello che faccio invece in questo caso, quindi tramite il robo advisor, è rivolgermi a una piattaforma online alla base della quale sta un software, e questo software gestisce il mio investimento in modo automatizzato, senza che a volte io conosca effettivamente come questo software viene programmato. Quindi è una gestione dei miei investimenti completamente automatizzata e poco visibile al cliente finale. Ok, quindi diciamo che c'è una piattaforma che fa quello che normalmente è il lavoro del consulente finanziario, che però tipicamente, diciamo, si occupa di chi ha dei grossi capitali da investire, no? Esattamente, le attività svolte sono esattamente le stesse, la modalità con cui vengono svolte è completamente diversa. In un modo è il gestore stesso che svolge la gran parte dell'attività che sta dietro ad un processo. Quindi di comprare titoli, vendere titoli, capire le esigenze del cliente, fare la profilazione del cliente. Quindi tutto questo con un robot advisor viene fatto da un software in modo automatizzato. Ad esempio, a capire le mie necessità andando a studiare i miei movimenti del conto corrente, e sulla base di questo cercano qual è il miglior modo di investire quanto io voglio. Insomma, si è capito già che l'aspetto del segreto, chiamiamolo così, che avvolge questi algoritmi, che magari funzionano anche, nessuno lo discute, comunque è uno dei problemi, è un problema non banale forse. Ecco, volevo capire oggi chi, se c'è, fa già uso di questo tipo di servizi, ma più in generale a chi si pensa che verranno rivolti in futuro. La tipologia di clientela è di due tipi. Da una parte è esattamente la stessa clientela che oggi si rivolge ai fondi pensione e ai fondi di investimento. Cercano quindi di diversificare i loro investimenti, andando magari con una quota per ora poco rilevante del patrimonio generale investita in modo automatizzato. Vogliono un po' capire come funziona, certo, soprattutto se funziona. Certo. E poi magari un domani diciamo spostarsi e quindi investire in modo prevalente con i software. Con queste tecnologie. Ecco, ma è sbagliato dire che queste tecnologie possono dare accesso a un mondo della consulenza finanziaria, chiamiamolo così, anche a soggetti che altrimenti avrebbero avuto difficoltà perché non hanno capitali sufficientemente interessanti? È assolutamente corretto, perché proprio il fatto di avere un software automatizzato dietro il processo di gestione fa sì che il costo della gestione sia molto basso. Quindi anche investitori che hanno piccole somme da investire possono trovare conveniente, quindi remunerativo, pagando poche commissioni e gestendo quindi in questo modo alternativo il proprio patrimonio. Il proprio patrimonio. Ecco, ci sono degli effetti che però possiamo aspettarci sulle banche? Per esempio, c'è un problema di competenze che all'interno delle banche rischiano di diventare magari superate con la diffusione di questi sistemi? Assolutamente, i problemi in realtà sono di due tipi: uno è per la banca, come la banca deve reagire, l'altro è invece per chi oggi lavora nella banca e per chi oggi fa il gestore. Guardando il primo punto, quindi le banche, cosa stanno facendo oggi le banche, alcune di loro, soprattutto a livello internazionale, stanno creando le proprie piattaforme di investimento. Ma oggi il grande valore che ha la banca nella gestione degli investimenti è il legame, la conoscenza del cliente, che ancora si fida molto spesso del gestore, del promotore finanziario, e questo è assolutamente un asset di grandissimo valore. Chi lavora oggi ad uno sportello bancario, è ovvio che i robot advisor sono assolutamente una minaccia, ecco, per il suo futuro. Come reagire? Anche qui probabilmente due modi. Una è formazione, cioè investire sulla formazione dei dipendenti attuali delle banche e dall'altra parte... Per lavorare sul valore aggiunto, no? Su quelle cose che neanche il robot advisor è in grado di fare, perché poi questi aspetti anche di empatia e di comprensione umana non è che non valgano nulla, ecco, insomma... E non possono essere in alcun modo sostituiti, esatto, dalla piattaforma. Quindi cercare di basarsi su questo e di offrire servizi nuovi, magari anche in modo più efficiente. Grazie, grazie Laura Grassi. Grazie a voi, buona serata. Va bene, è tutto. Appuntamento domani per la quarta puntata dedicata alle Financial Technology. Buona serata.